Piccoli passi per ricominciare, per costruire giorno dopo giorno. Sembrava sempre la scelta migliore e adesso siamo qua. Come finestre aperte sul cortile, a raccontarci quello che non va, per ritornare di nuovo con piccoli passi a dirci la verità. La nostra casa è qui, dove passano le nuvole. Io sono fatta così, non so mentire, e siamo troppo grandi per le favole. Se vuoi farti capire, non mi scrivere poesie come me che ancora credo di poterti imprigionare in quello che mi aspetto da te. Non ti ho chiesto di cambiare, ma di avvicinarti a me. Meritiamo l'occasione di capire che siamo fatti anche di quel che abbiamo perso, di quel che abbiamo perso. Piccoli gesti da recuperare per imparare il senso di un ritorno. Ho scelto con cura le cose da non dire, per questo sono qua. La nostra vita è qui, non certo sulle nuvole. Io sono fatta così, amo sbagliare, ma non ho più paura di decidere. Se vuoi farti capire, non mi scrivere poesie come me che ancora credo di poterti imprigionare in quello che mi aspetto da te. Non ti ho chiesto di cambiare, ma di avvicinarti a me. Meritiamo l'occasione di capire che siamo fatti anche di quel che abbiamo perso, quel che abbiamo perso. Se vuoi farti capire, non mi scrivere poesie come me che ancora credo di poterti imprigionare in quello che mi aspetto da te. Non ti ho chiesto di cambiare, ma di avvicinarti a me. Meritiamo l'occasione di capire che siamo fatti anche di quel che abbiamo perso, di quel che abbiamo perso. Siamo fatti anche di quel che abbiamo perso.